Buonasera, benvenuti a Nottetempo 7 Minutes, le pillole di musica indipendente distribuite nel web sotto licenza Creative Commons. Questa settimana diventano pillole poetiche. Io sono Livia Napolitano e questa è Radio Libriamoci Web. La poesia di strada dal Libano, da Haiti, da Amsterdam a Barcellona copre i muri di tutto il mondo ed ora anche in Italia. Versi come pioggia tra le genti, così recita il manifesto di Assalto Poesia, un movimento, se così possiamo definirlo, che propone e promuove nuove tecniche e nuovi contenuti, che diffonde la poesia liberamente nelle piazze, nelle strade, tra la gente. Eternal Moonshine di Sasha Bastian, il brano liberamente fruibile e condivisibile come tutti i brani che lanciamo nel web ogni settimana, ma adesso diamo spazio alle testimonianze degli stessi protagonisti di questo assalto poetico che si è tenuto nei vicoli di Genova qualche settimana fa. Adesso Davide da Lecce, prego, come è andata questa esperienza? Credo sinceramente molto bene, anche perché effettivamente Genova è molto particolare come città, è una città effettivamente multietnica, e soprattutto nei vicoli in cui abbiamo agito abbiamo trovato molte persone in un certo senso dalla nostra parte, cioè persone che capivano il valore della poesia, di scrivere un testo per strada. Scrivere un testo per strada significa scriverlo per la gente e per le persone che passano in quella strada. Quindi il fatto stesso che ci sia una buona risposta nel momento stesso in cui scrivi ti fa avere effettivamente buone speranze per continuare, sì. Allora, ci sono fonti di gioia anche in prigione, e la noia fa i conti con l'immaginazione. Una foto, un ricordo compone visione di un sorriso mai perso se non per errore. Se c'è da punire per pulire un abbaglio, vittima ingiusta rimane lo sguardo, costretto a provare imbarazzo all'abbaglio di un sole che da luce diviene traguardo. Ascolto di Eternal Moonshine di Sasha Bastian e vi do appuntamento come ogni settimana alle 18 alle 23 su Radio Libriamoci Web, oppure in podcast sul blog www.nottetempoblog.wordpress.com. Alla prossima puntata.